Fuga del gatto, la fuga del gatto, domenica. Madonna, come si sente male la mia voce? Vabbè, non voglio sapere. Domenica 29 dicembre. L'ultima. Sì. Domenica dell'anno. Bene. L'ultima domenica dell'anno del 2019, la fuga del gatto, Radio Wombat, ovviamente. Tu parla, che intanto la io faccio... La fuga dall'anno, volevo dire, oggi ve lo dico, sono praticamente forma. Oh, che le risa. Insperata forma, veramente. Sì, e questa ultima domenica di quest'anno, che negli ultimi mesi effettivamente è stato un po'... travagliato, ma dai, ci riprenderemo, rientreremo un po' nei ritmi con l'anno nuovo, ci auguriamo che così ci riporti un po' a dei ritmi più umani per quanto riguarda le nostre fughe. E oggi però vi salutiamo l'anno con una chicca, direi, dai, abbastanza una chicchetta, sì, scusa. Breve e indolore, non vi preoccupate. Stavo facendo i volumi su questo mixer che non ci capisco mai niente, c'è un mixer nuovo. Mixer nuovo, la Mari ancora non ha imparato a giocarci, io no. Tanto meno le mani non ce l'avvicino neanche, perché potrebbero succedere cose veramente inaudite, sì, per sì, cui sì. Non me lo fanno neanche anche toccare. No, e, no. Allora va bene, oggi vi annunciamo già che vabbè, a parte secondo me si dovrebbe aprire un ciclo che comincia con oggi, con le grandi dimenticate dalla storia, sì, che poi chi se ne frega della storia con la S maiuscola, perché ovviamente chi se ne frega, però insomma proprio essere completamente dimenticati dalla storia non è bellerrimo, e guarda caso succede quasi sempre alle donne. Ora non vorrei rientrare nella solita polemica, lo so, però no, tra l'altro, cioè, potremmo aprire un ciclo lunghissimo che però in realtà poi cioè lunghissimo così in potenza, ma poi in realtà brevissimo, perché non c'è materiale. Ma no, è quindi... ovvio, perché se sei dimenticato dalla storia è proprio... capisci in un loop così, non vieni, non c'è testimonianza, quindi poi è anche difficile trovarti proprio perché sei stato dimenticato dalla storia. No, e quindi è un cane si morde la poi voce. Ti dicono, come lo sai che erano così brave, eh? E in effetti d'altronde poi non lo puoi mica sapere. No, certo, non lo posso sapere, perché... effettivamente. Bene, quindi DDS dimenticati dalla storia. Se qualcuno vuole usare questo nome per un gruppo mi può contattare, darò volentieri i diritti. Oggi sì. Iniziamo con la grande dimenticata, che in realtà un pochino negli ultimi anni sta iniziando a essere ricordata. Dai. Forse è una di quelle che si ricordano di più, sì. Delle dimenticate, ecco, facciamo così. Sì, poi in questo così post-femminismo di risciacquo invade tutto, ovviamente, scusate, lo devo dire, lo voglio dire, lo dirò. Ovviamente poi si va a recuperare tutto, perché che fai? È la donna, quindi poi la devi recuperare per forza. Mi piace molto questo post-femminismo di risciacquo, è un termine che userò. È bello, lo puoi usare. E la sorella di Mozart, sì. Nota, abbastanza nota in realtà, agli specialisti. Sì, che poi è bello, la sorella di, cioè comunque già tutti la conoscono così, ovvio, perché sono non... partita subito. Maria Anna Valburga Ignazia Mozart, e quindi sì, la sorella di Mozart, che fai un... non l'avrei mai detto se non fosse che era Mozart, se era madre diceva un altro, però è la sorella di Mozart, sì. E, che nasce a Salisburgo nel luglio del 1751. E morì sempre a Salisburgo nell'829. Era la sorella maggiore di Wolfgang Amadeus, e quindi figlia di Leopold Mozart e di Anna Maria Pertl. In famiglia famosa, nota come... Che nome c'aveva comunque? Nannerl. Ma cioè, perché giustamente c'era un nome talmente lungo che se non gli davano... Comunque non avevano le vocali in quella famiglia. Era una famiglia un po' così. Vabbè. Talento musicale, ma a nomi messi male, veramente malissimo. E così col vezzeggiativo di Nanner, che scusate a chi è di origine tedesca, si gli staranno venendo i capelli verdi, ma è passata appunto alla storia, sì. Alla storia. Lo sappiamo tutti, e se non lo sapete sapevatelo, del padre padrone di Mozart, il vecchio Leopold, che l'aveva messo tutti in pista, insomma. Sì, tra l'altro ora non per fare pubblicità ad altre radio, che comunque peraltro non hanno assolutamente bisogno della nostra pubblicità, no, né di noi, per esempio tipo Radio 3, beh. Così, però Radio 3 in questi giorni ha fatto un bellissimo speciale su la famiglia Mozart, sì. Parlando della biografia di Wolfgang, però non soltanto di lui, in realtà parlando moltissimo anche del resto dei componenti familiari, e ve la consiglio, perché io me ne sono gustata solo alcune puntate, però mi andrò a risentire il podcast, e quelle poche che ho sentito però erano veramente belle, interessanti, approfondite. Sì, e questa su di lei non l'ho sentita apposta perché non volevo subire il paragone, quindi no. L'ho saltata. magari poi, perché sarà bellissimo, di sicuro hanno trovato anche quanti corsetti ci aveva, sì, certo. È quello, è così. E noi no. Però noi vi rifiliamo così un po' quello che si trova. Come sappiamo, Leopold, Mozart, musicista presso la corte di Salisburgo, riconobbe molto presto nella figlia, e poi naturalmente anche nel figlio, anche perché immagino fosse difficile non riconoscerlo, uno straordinario talento musicale, e la iniziò così allo studio del clavicembalo. Quindi lei fu effettivamente, siccome era più grande, probabilmente cominciò anche prima. Sì, tra l'altro era abbastanza usuale per le donne di studiare in famiglia la musica, insomma la musica era qualcosa che le donne, cioè, rientrava sì, nella... gli si poteva far fare, basta che poi non esageravi, no, fino a un certo punto, cioè se chi facevi la polonese, dottore, ma va bene, no, poi cioè, comunque è delizioso avere in casa un aggeggio che ti suona della musica, sì, no? Anche è per carino il marito, perché comunque se suoni il pianoforte si vede meglio anche il collo, sì, dritta, ma poi fai le feste, cioè non è che c'avevano il lettore MP3, c'avevano lei che ogni tanto vai Nannerl e lei ti suonava una geggina. Comunque è utile, infatti lo insegnavano nell'educazione musicale delle giovani signorine di buona famiglia, diciamo comunque anche di media famiglia, veniva insegnato quasi sempre la musica. Poi chiaramente se uno era portata buona smetteva, cazzi, e poi vedremo, perché non eri un uomo e quindi dove vai. A partire dal 1762, quando Nannerl appunto aveva poco più di 16 anni e Wolfgang 6, i due bambini furono portati appunto in tour per tutta Europa e appunto il padre, così come vi dicevo prima, lui era molto imprenditoriale nella musica, li mise proprio in pista. E così insieme al fratello, scusate, abbiamo un attimo un problema tecnico. Ci dicono che non siamo in onda. Non siamo in onda, perché ci dicono, questa... ma non è vero. Non mi volevo fermare, però no. È successa questa cosa bruttissima, capisco. Non è vero, secondo me sono tutte delle maldicenze. Non è vero, io vado avanti, va bene, me ne batto. Sì. Ok, quindi quando appunto Wolfgang aveva 6 anni e lei appunto ne aveva già 16, quindi era più grande, così nelle li fece, il padre li portava in giro, li faceva esibire, e siccome avevano molto talento, insomma, anche alle corti, per le teste coronate di tutto il mondo, passarono anche da Firenze, come sappiamo, c'è stato anche diverse, no? In Mozart a Firenze, famoso, non so se vi ricordate, nel film Amadeus, quando lui arriva a Vienna da grande e il Giuseppe, l'imperatore, gli dice: ah sì, mi ricordo di averti visto da piccolo suonare, no? Cioè, lui, io e mia sorella, che poi era Maria Antonietta, di Francia, ma sì. E quindi ecco, è nota questa cosa di Mozart, che un po' tipo scimmia ammaestrata veniva portato, e lei anche, quindi insomma per un lungo periodo in realtà non aveva niente da invidiare al fratello, e l'ambizioso padre appunto li faceva esibire per i potenti del tempo in questi tour. La famiglia appunto effettuò diverse tournée artistiche, una delle quali si protrasse addirittura per 3 anni consecutivi, quindi insomma manco i Kiss, veramente, dal 1763 al 1766, quindi insomma lunga tournée. Durante questi viaggi, ovviamente in condizioni dell'epoca, vi potete immaginare, con il freddo e con tutto, entrambi i bambini spesso si ammalavano seriamente a più riprese, e addirittura lei contrasse il vaiolo, il tifo, e insomma, però sopravvissero entrambi, come poi sappiamo. Che dire, allora, la musica, Leopold Mozart era anche compositore, come sappiamo, chiaramente non a livello di come sarà poi il figlio, e scrisse per loro due, e per Maria, anche se intendo bene, proprio dei pezzi, sì, dei pezzi per la figlia. Sì, giusto? Che poi tra l'altro sono stati, cioè, gli regalò uno dei, non so se il compleanno, quando, insomma comunque quando era molto piccola, gli regalò questo album vuoto, in cui poi piano piano nel corso del tempo iniziò a scrivere, per l'ottavo compleanno, ecco me l'ero segnato, e via via iniziò a riempirlo di musica, e questa musica in realtà realtà non c'è veramente, era un quaderno di esercizi, poi era qualcosa di molto familiare, di molto intimo, e quindi in realtà anche se c'è arrivato non siamo sicuri bene di chi abbia scritto la musica, nel senso che molta è a mano di Leopold, perché comunque è firmata da Leopold, ma c'è anche molta musica non sua, ci sono pezzi composti da altri compositori del tempo. E poi tra l'altro via via nel tempo ci fu anche molta, molta musica invece aggiunta dallo stesso Wolfgang, e tra l'altro probabilmente che al tempo aveva, ricordiamo, 5-6 anni. Tra l'altro, vabbè, così. Però è già. Che via via gli faceva gli appuntini, faceva: aspetta, ma qui facciamo questo minuetto. Tra l'altro, simpatia, doveva essere maledetto. Veramente maledetto, scimmia. A Maestrata, questi libretto in cui Leopold appuntava dal 1759 al 1764, in cui scriveva pezzi per la figlia, sono noti come i quaderni di Nannerl, sono proprio rimasti sì. Noti come Nannerl's Music Book, quindi proprio a lei, a nome di lei. E questo quindi. Sì, e poi anche lì sicuramente c'erano le mani di Leopold, quelle di Mozart, probabilmente anche quelle di Nannerl, però sicuro, perché poi come vedremo chissà. Lei scrisse dei pezzi. Sì. Direi che possiamo mandare infatti un primo ascolto, un estratto. Sì, proprio da questo libretto, da questo manuale di esercizi, appunto scritto a varie mani, contenente varie cose, e ci ascoltiamo alcuni di questi esercizi. Sono catalogati in K1A fino al K5A, e non anche qui, chissà, probabilmente molti li riportano come scritti da Leopold, boh, chissà, non la darei come cosa certa. In ogni caso, insomma, si sente la mano familiare, come dire. Vabbè, sentiamo. Thank you. ecco qua. Ebbene, sì, quindi niente, lei appunto divenne, quindi via via, insomma, crebbe nelle sue... in questo milieu. In questo milieu e nella sua capacità, divenendo un eccellente pianista e un insegnante di musica molto apprezzata. Aveva inoltre la capacità di trascrivere a memoria, leggevo appunto, qualunque musica ascoltasse. Sì, quindi, questa cosa poi vedremo che Wolfgang l'ha sfruttata non poco. Esatto. Era un po' un genietto pure lei. E appunto nei nostri appunti si trova che il rapporto così di fratellanza tra Wolfgang e Nanner doveva essere appunto solido e profondo, proprio anche perché avevano passato tanto tempo insieme, no? Questa cosa delle tournée, di essere in giro, magari gli aveva dato la possibilità, rispetto magari alla vita di famiglia classica in cui avrebbero passato meno tempo insieme, soprattutto perché è maschio e femmina, no? E invece magari questa cosa di andare a giro, di suonare, erano... li aveva legati anche più profondamente. Le scimmiette, vittime del padre. E quindi appunto così questo Wolf, lui che era appunto già da piccolino, sappiamo essere questa forza della natura, già racchiusa in un corpicino di un marmocchio che sembrava ancora più piccolo della sua età, esuberante, impudente, amava lo scherzo e la derisione, così ci è un po' consegnata la storia anche, no? Nanner era meno assertiva, più introversa, come si deduce appunto leggendo l'epistolario di famiglia e il diario che lei teneva. Sì, tra l'altro questi sono un po' le uniche fonti di notizie che abbiamo, cioè tutto ciò che vi stiamo dicendo oggi e che tendenzialmente vi può dire anche chiunque, derivano un po' da appunto le lettere che si scambiavano loro o altri, o la famiglia, insomma Leopold e la moglie, eccetera, e il diario di Nanner, che tra l'altro poi dopo forse ne parleremo un po' meglio se non mi ricordo male, però insomma nel diario di lei il fratello aveva questa simpatica abitudine ogni tanto di per scherzo e poi per farla arrabbiare, di rubarglielo e scrivergli le cose, commentarlo. Certo. Sì, me lo commenta. Fratelli. Io penso che questo infatti sia proprio un grande classico. Ah, fratelli. Sì, del dispetto. E il diario, il famoso diario col lucchetto. È chiaro che il lucchetto lo metti per il fratello, perché, No, vedrai. E quindi sì, questa cosa qua era buffa, perché poi abbiamo così avuto una sorta di cronaca. Ci è arrivata fino a noi una cronaca divertente e ovviamente parziale, però da cui si può dedurre qualcosa, e sia con la voce di lei e anche con la voce di lui, che ovviamente tendeva a ridicolizzare tutto, a prenderla in giro, però insomma si poteva capire qualcosa in più, e peraltro appunto è l'unica fonte che ci è arrivata. Esatto, Wolfgang, sappiamo che Wolfgang aveva appunto un'alta opinione del talento della sua sorella e della competenza di lei. Le sottoponeva d'abitudine le proprie partiture per avere un parere, compose inoltre alcuni pezzi per pianoforte a quattro mani e per due pianoforti, espressamente per suonarli in coppia con lei, quindi proprio scritti per suonarli con lei. Sì, dopo lo ascolteremo. E anche questo è il caso appunto del concerto per due pianoforti e orchestra KV 365, di cui appunto è un esempio. Wolfgang le fece anche omaggio di un brano musicale nel giorno del suo onomastico nel 1776, il divertimento in re maggiore per oboe, corni ed archi, che si chiama appunto Nannerl Septet, quindi il settetto di Nannerl, quindi proprio dedicato a lei. E non solo la incoraggiò a comporre musica, ma anche nella sua attività appunto, nella quale appunto lei aveva provato a cimentarsi nella composizione. Molto probabilmente però appunto o lei non seguì poi il consiglio del fratello, no? non proseguì nella sua attività di compositrice, oppure, cosa più probabile, perché in realtà era strano che anche lei non avesse scritto, lo seguì ma non è rimasta traccia, non ne sono trovati, così magari non è stato poi stampato, non è stato editato. Nessuna sua composizione è stata infatti conservata, ed anche per il misterioso lead è andato perduto. Questo misterioso lead a cui si fa accenno qui è un lead che lei avrebbe composto e di cui il fratello era particolarmente entusiasta. Cioè anche si trova una lettera di Mozart in cui lui le scrive appunto che aveva apprezzato tanto questo lead e in cui la spinge a continuare a proseguire le sue attività di scrittrice, perché era entusiasta appunto di come lei avesse scritto questo pezzo. Anche di quello però non si trovano traccia, e se ne conosce l'esistenza solo perché appunto lui scrive questa lettera di elogio, queste due o tre righe, insomma, in questo passaggio, in questa lettera. Sì, tra l'altro c'è anche da dire che al di là dell'oblio così che abbiamo detto, colpevole e abbastanza consueto nei confronti di una donna musicista, c'è stato anche molto oblio su Mozart stesso, perché in realtà, essendo poi morto praticamente in povero, molta roba è andata persa, molte cose sono state vendute, molte cose sono andate perse, bruciate chissà dove. Anche perché lui aveva prodotto tantissimo nonostante la giovane età, perché scriveva da quando era piccolo, quindi non è possibile, tutto quello che c'è di sicuro non è tutto. Sì, sì, tra l'altro proprio in questa trasmissione su Radio 3 sentivo di anche cose molto belle di suoi mondi immaginari messi su carta, disegnati da uno dei domestici, che appunto era stato in qualche modo costretto da Mozart a disegnare questo suo mondo, che era questo mondo immaginario in cui il piccolo Mozart si rifugiava nei tour, quando non ne poteva più dello stress e della pressione anche da parte del padre e da tutto il mondo, e allora si rifugiava in questo mondo di fantasia molto molto preciso, anche molto dettagliato, e pare che ci fosse questa mappa disegnata da questo domestico. Io avrei veramente, penso chiunque avrebbe pagato oro per vederla, e non c'è traccia di tutto ciò, ovviamente. C'è una cosa che ci viene anche questa raccontata in un diario di, penso proprio della sorella, ma purtroppo non chissà. È quello. Quindi insomma, grandissime cose sono andate perse, quindi oggettivamente c'è anche da spezzare un po' la lancia. Ma perché all'inizio, come si è sempre detto, anche Mozart è un grande dimenticato della storia all'inizio, poi dopo è stato ovviamente, però lì per lì, cioè, muore in povertà nella fossa comune, cioè nessuno se ne, cioè, appunto è così. Pochi lo consideravano, era passato anche di moda, quindi pochi lo consideravano. Fu dopo che fu stato ripreso e poi scritto tante volte. Comunque, a testimonianza della bravura di lei, ci sono varie testimonianze, tra cui delle lettere che Leopold Mozart scrive a un amico di famiglia alla metà del 1700, circa negli anni 60 del 700, in cui racconta che il principe elettore di Baviera, Massimiliano Giuseppe, si era molto rammaricato per non aver potuto ascoltare Nanner in concerto, perché appunto lei aveva raggiunto la fama di essere molto brava, e lui invece, appunto, il principe vide Wolfgang da solo, e appunto perché aveva più spazio Wolfgang da solo. In realtà Nanner pare che avesse avuto più grandi applausi, ricevesse sempre grande, quasi più del fratello, almeno in un momento. E quindi gli aristocratici, comunque chi riusciva a sentirla, definiva sia lei che il fratello, in un'altra lettera, tra l'altro. Si legge appunto: i veri prodigi sono rari, perciò opportuno parlarne quando si ha l'occasione di vederne uno. Un maestro di cappella di Salisburgo di nome Mozart è appena giunto qui con i suoi due graziosissimi figli. La figlia di 11 anni suona stupendamente il clavicembalo ed esegue i brani più lunghi e difficili con una precisione impressionante. Ecco, questa era già la fama che negli anni 60 del 700 i due figli di Leopold avevano, quindi insomma, la fama di lei nulla. No, sono un po' anche questi gli unici indizi, perché ora oggettivamente non è che dobbiamo essere per forza, non abbiamo la certezza che lei fosse sto genio, però ci sono degli indizi che ci fanno pensare che quantomeno in tutte le poche lettere, nelle testimonianze scritte, la paragonano al fratello, quindi evidentemente era più piccolo, quindi ok. Però insomma, si parla sempre. E si fa notare, già soltanto in queste lettere, si fa notare di quanto in realtà lo spazio fosse maggiore per il bimbo sempre, e non per la bimba. Fin dall'inizio, e poi infatti vedremo che la e storia. Poi va a un certo punto si riduce. Ciao, totalmente. E io direi di far ascoltare un altro brano che è sempre tratto da il libro di cui vi parlavamo prima. Qui si tratta invece, infatti è il K6, e qui però si tratta non di esercizio per solo piano, ma violino e clavicembalo, la sonata numero 1. Ed è un altro, qui non si parla in realtà veramente di esercizi, è proprio una suonata, c'ha un po' un attimo di dignità in più. E è proprio scritta per entrambi, per Wolfgang Amadeus e Marianna Mozart. E qui ci sono dispute su chi l'abbia composta effettivamente. Pare il fratello, non è poi così certo, come poi vedremo, insomma, un po' per qualche. Chiaro. Tutti no, ma insomma molti di questi brani che stiamo per ascoltare. Quindi direi di ascoltarla. Sì, questa in qualche modo ve la dovete immaginare come suonata da queste due scimmiette di, boh, penso al tempo 6 e forse un po' di 12 più, anni. Sì, forse una cosa un po' del di genere. Lui è 16, lei. Sì. 10 e 16. Thank you. Che bello. Molto bene. Questi due genietti, queste due scemmettine. Eh sì, averne. E quindi eravamo rimasti che praticamente Nannerl era, andava tutto bene, insomma era molto dotata, molto brava, Mozart la incoraggiava, tutto ale. Il problema è che poi a un certo punto questa cosa si incrinò, questo bellissimo equilibrio, sogno, perché? Si incrinò. Perché? E qui ci sono varie teorie, ma insomma io penso che quella più accreditata sia il fatto che Leopold non aveva tutti questi soldi, stava investendo palesemente moltissimo sul figlio, che era un po' la vacca, come si dice, non era la vacca, la vacca grassa. No? Abbiamo capito, sì, lui aveva deciso, era lui quello di punta, e ecco. Anche ha ragione, probabilmente, aveva iniziato su di lui, e sì. Quindi alla fine i mezzi erano quelli. Anche perché a un certo punto proprio disse, va bene, ok, dobbiamo andare a fare questi mega tour in giro in Italia, in Europa. Non è che c'erano gli sponsor all'epoca, no, e non ce lo possiamo permettere. Ora, è da capire quanto questa cosa poi sia effettivamente, insomma, quanto c'è, cioè questa era un po' la scusa che lui diceva, soprattutto alla famiglia, perché poi tra l'altro il tour non è che andavano solo loro tre, andava anche la moglie, andavano certo. Tutti e quattro, anche perché magari capitava di stare via per mesi. Abbiamo visto anche anni, quindi. Appunto, viaggi lunghissimi, difficili, eccetera. Quindi c'erano queste lettere dove lui, Leopold, diceva ma vi risparmio, qui fa un freddo. Cioè, ti immagini, fa freddo in Italia, cioè, che invece in Austria. È così. Tutto così, e insomma, era un pochino una serie di scuse. E poi, però era un po' un meccanismo un po' strano, perché se da una parte appunto lui faceva il premuroso dicendogli ma vi ho risparmiato una fatica, una stanchezza, poi non abbiamo i soldi, poi qua ci siamo dovuti, sapete, una fatica, dobbiamo andare tutti i giorni in società a fare balli, a esibirci, cioè insomma stavo a casa e non è che immagino che rosicasse perché quando dicevi appunto quando Nannerl divenne adolescente e Mozart cominciava a crescere, Leopold decise appunto che fosse il figlio maschio su cui investire, un po' perché era il maschio, un po' perché aveva già rivelato le dosi di genio che già sappiamo, in generale perché era maschio, comunque fosse più adatto più a portare facile. La sua famiglia e la fama e la fortuna che Leopold bramava. E così la povera Nannerl fu messa un po' da parte, perché già nel 1769 padre e figlio partirono per l'Italia, la patria ovviamente dell'opera, ma in generale della musica, in cerca di gloria. E Nannerl fu lasciata con la madre a Salisburgo, dove prese a dare lezioni di clavicembalo, quindi si sa che lei era anche brava al punto di poter insegnare a quel punto, allo scopo di finanziare il viaggio degli uomini di casa. Quindi insomma, non voglio nemmeno cominciare, guarda, non comincio neanche, ve l'ho promesso che sarei stata brava, non avrei nemmeno cominciato e non comincerò. Ognuno si faccia le sue considerazioni. Esatto. E leggevamo appunto, leggiamo da questi appunti in cui si dice la rinuncia all'espressione artistica è una forma di mutilazione spirituale che inesorabilmente ebbe effetti sulla psiche della giovane musicista. Dall'epistolario di famiglia emerge che la figura della ragazza affetta da numerosi malanni, cominciò a essere affetta da numerosi malanni, tra i quali una serie di terribili emicranie che non a caso la coglievano sempre nei giorni successivi alla partenza del fratello per qualche impegno musicale. Nannerl, riferisce il padre nelle sue lettere, si chiudeva nella propria camera al buio, si fasciava la testa, al tempo pensava non funzionasse, e non si muoveva per ore e per giorni. Quindi insomma l'aveva presa bene, ecco, sì. La ragazza l'aveva presa bene. Sì, no, ma non gli costava niente stare a casa. No. E quindi poi ovviamente ci sono lettere dal fratello a lei e così insomma continuano gli scambi anche addirittura in una lettera da Bologna nel 1770 Wolfgang apostrofa Nannerl o mia lavoratrice, perché lei gli aveva inviato la copia rubata di alcuni minuetti di Haydn che aveva tranquillamente trascritto a memoria al termine di un concerto che era andato a sentire, no, poi capito? Lo mandava a lui, capito? E lui poi se li suonava. E anche qui non voglio genio neanche cominciare. Sì. E quindi questo, direi che possiamo finire la storia di lei e mandare un ascolto. Vuoi fare? Ma senti, ne abbiamo due di ascolti, okay. Quindi io dividerei. Magari mandiamo prima ora un altro po' di musica. Perfetto. Che è pochina questa, è un brano veloce. Poi concludiamo e con l'ultimo, sì, perché allora vi facciamo ascoltare a questo punto. L'abbiamo citato all'inizio della puntata. Il concerto per due pianoforti e orchestra, il KV365, ovvero il concerto numero 10 in Mi bemolle, che era stato scritto da Wolfgang per essere suonato insieme alla sorella, cosa che poi chissà se avvenne, sicuramente non credo che avvenne in pubblico, ecco, però no, forse no, però a quel punto non c'era già testimonianze comunque, no, quindi. Però comunque sia, insomma, era stato quantomeno pensato per questo. Ci ascoltiamo il primo movimento dall'andamento allegro e poi ci ritroviamo qui per l'ultimo ascolto e per un po' di ultime storielle. Thank you. Beh. E vabbè, e qui siamo già, insomma, nei faraggi, direi. Decisamente. Va bene. E poi che succede? Nannerl poi piano piano, come dicevamo, viene sottratta alle attività musicali, piano piano rallenta sempre, beh, piano piano direi brutalmente rallenta. Anche perché la fanno sposare, quindi sì, e decide che decide, lei non decide proprio niente. Il resto del mondo decide che finalmente lei deve mettere la testa a pozzo e fare quello per cui è nata, ovvero fare figli e sposarsi. Quindi diviene una madre di famiglia e si occupa dei propri figli. Eppure di quelli del marito che sono nati da due precedenti matrimoni. Sì, quindi, perché insomma, quando sei lì... Che fate l'accolli pure con gli altri. Sì, molto... Poi mi immagino matrimonio proprio voluto, per niente di convenienza. No, immagino. No, immagino. Uno che si era già sposato due volte, sai. Bel sì, poi lei mi immagino. Sì. Vabbè. E il fratello nel frammento, che comunque era simpatico anche Mozart, c'è da dire, la prendeva pure per il culo. Certo. Perché ovviamente lui compone anche le filastrocche che le manda. Tipo nel 1784, quando lei si sposò, gli mandano una filastrocca, ha scritto: presto saprai per tua esperienza ciò che anche Eva ebbe a imparare, onde a Caino la vita donare. Eh? E qui io ci ho avuto un attimo, cioè la mia fede mozartiana un attimo oscillata così. Poi no, ho voluto, no. Lo so. Lui l'ha detto anzi con spirito critico. Sì, perché poi lui in realtà, capito, molto libertino com'era, vabbè. No, l'ha detto proprio anzi per dire, vedi povera vabbè, donna dai. Sfruttata. Ok Mari, lo so che non vuoi io perda almeno anche l'ultimo barlume di fede. No, no. In Mozart, che poi mi rimane Wagner e poi mi butto di sotto. Quindi insomma, ecco. Capisci no. Insomma, e già Wagner non apriamo nemmeno, lì so già. Beh, quindi in seguito alla prematura scomparsa del povero Amadeus, come sappiamo 1791, però Nannerl diede un contributo di notevole importanza alla promozione della sua figura di musicista, collaborando con i suoi biografi, autenticando le sue composizioni e incentivandone la pubblicazione. Quindi se sì, ci è arrivato quello che ci è arrivato, probabilmente lo dobbiamo anche a lei. Ecco. Anche perché, fra l'altro, questa cosa dell'autenticazione non è proprio una banalità, perché alla morte, quando poi iniziarono a, insomma, iniziò a diffondersi un po' questo mito di Mozart, ovviamente fioccarono le imitazioni e sbucarono da zero gli spartiti, così ho trovato nel cassetto questo spartito che vale un sacco di soldi, e lei aiutò parecchio la questione autenticando soltanto le cose effettivamente del fratello, certo. Tra l'altro anche la Costanze, la moglie di Mozart, pure lei, ecco, cioè, ci mise del suo, perché messa male a livello economico, sì, chiaramente si vendeva un po' di tutto col figlio a carico, perché poi sappiamo che la sorella, almeno leggevo che lei non aveva mai visto di buon occhio il matrimonio con Costanzi, un po' no, come il però... padre, perché la considerava un po' di bassa lega per Mozart. Sciacquetta. E invece vedi, anche lì Mozart dimostrò in realtà che gli importava un cavolo, come spesso aveva dimostrato nella sua vita. E tra l'altro poi sì, è vero che appunto poi i rapporti anche tra i due fratelli si raffreddarono parecchio, probabilmente per questo, ma non solo. Sì, beh, certo, anche la distanza ovviamente. Anche il fatto che lei insomma aveva avuto una vita un po' leggermente frustrata, e però poi lei comunque si fece carico del figlio di Mozart, e diventò un po' la sua madrina, e sviluppò un rapporto molto, molto anzi profondo con il nipotino, quindi insomma in qualche modo recuperò, direi sì. E questo, rimasta vedova nel 1801, Nannerl tornò a Salisburgo e riprese lacrimente l'insegnamento, perché non viveva a Salisburgo, viveva in un paese a 6 ore da Salisburgo. Nannerl tornò a Salisburgo e riprese lacrimente l'insegnamento del pianoforte, sepolta nell'abbazia di San Pietro di Salisburgo accanto a Johann Michael Haydn, il fratello Franz Joseph Haydn, che era a sua volta musicista e compositore. Come sappiamo, Mozart, il corpo di Mozart fu buttato in una fossa comune, quindi sì, ora c'è il mausoleo, immagino sì ci sia il sicuro, c'è il, però insomma in realtà non ha mai avuto la tomba ufficialmente, quindi di sì, fatto lei sì, un po' è buffo appunto che invece lei è stata sepolta accanto al fratello di Haydn, quindi i due fratelli, esatto, così sconosciuti, di due musicisti invece ben più noti. Esatto, però loro hanno avuto la tomba. Intanto Mozart, no. C'hanno avuto la tomba. Esatto. Sì, ora sicuro, mi sembra che c'è il mausoleo Mozart, sicuro c'è sì. tutta la cosa, però non è vero, non è reale, cioè appunto non ci sono i resti. Bene, quindi noi chiudiamo questa un po' questa dolciamara storia della Nanner, della vecchia Nanner. E, sì, con un ultimo brano che è Il divertimento in Re maggiore per oboe, corni ed archi, il KV251, opera 11 in Re maggiore, che era appunto quell'opera di cui si diceva prima, che Mozart dedica a sua sorella, per anche qui mi sembra onomastico compleanno, non mi ricordo. E con questo io direi ci ascoltiamo il primo movimento Allegro Molto, e con questo ci salutiamo e ci diamo appuntamento all'anno nuovo. Sì, decisamente. Bene. E quindi dai, dobbiamo dire quelle cose tipo buon anno, auguri, buona fine dell'anno, buon principio, buon inizio, no, buona vabbè. Fine, buon principio, vabbè, fate come vi pare. Va bene, alla prossima. Alla ciao ciao. Alla prossima, ciao. Thank you. Thank you.